L'arte ha il dovere di raccontare e di mettere dei punti su anche quello che succede nella vita, quindi è fondamentale che l'arte racconti quello che sta succedendo, no? O quello che non dovrebbe succedere. Questo non ha niente a che fare con la politica, ma è semplicemente una questione di umanità, di coscienza e di conoscenza della storia. Quindi il tema è Ithaca perché Ulisse è stato il primo grande migrante della storia occidentale e questo non lo racconto io, non lo racconta l'apparato curatoriale di Setup, ma lo racconta il grande libro di Omero. In che modo l'avete raccontato quest'anno con la 7ª edizione? Ecco, questo è stato meraviglioso perché appunto questo libro veramente dà tanti spunti anche che noi non avevamo colto, nel senso che io ero più affezionata al Cuore di Pietra di Penelope e in realtà invece i nostri 25 galleristi, chi il viaggio, chi l'arrivo a Itaca, chi la nave, chi le intemperie, ognuno di loro ha raccontato la particolare visione di Itaca. Noi l'abbiamo raccontato l'apparato curatoriale in maniera sentimentale e poi abbiamo scelto i progetti all'interno della fiera, gli off project, facendoci raccontare, soprattutto in un progetto che è il progetto video curato da Manuela Valentini a Island, facendoci raccontare da 5 artisti isolani che cosa vuol dire effettivamente vivere su un'isola, essere nati su un'isola, quali sono le criticità, ma quali sono anche i punti di forza. Quindi insomma devo dire che tantissime declinazioni. Infatti quest'anno ci sarà una sezione dedicata al video. Oltre a questo, quali sono le altre novità della 7ª edizione di Setup? Il programma Off Project è veramente molto ricco, ci sono 6 progetti che abbiamo scelto noi. Uno è il progetto video, che ci sarà proprio un cinema Setup con 4 video di questi 5 artisti isolani. Ci sarà il progetto Esegesi della Libertà di Luca Maria Castelli, curato da Maria Letizia Tega, che racconterà una Penelope moderna, molto particolare. Ci sarà il progetto di Caterina Morigi, artista meravigliosa che ha costruito insieme a un maestro di mosaico ravennate, ha costruito questo scrigno. Poi ci sarà il progetto di Barbara Baroncini, che è un video, anche questo inedito, su una sua residenza in Puglia che racconta il rapporto con la terra. E poi finalmente il progetto sullo scalone, al quale noi abbiamo sempre tenuto molto, che è insomma veramente la porta di apertura di Setup, è un grande scalone tardo cinquecentesco, quindi importantissimo e unico come conservazione in Italia, di Alessandro Moro e Francesco Bartoli, curato da Anna De Fazio Siciliano, che è questa curatrice calabrese straordinaria e che racconta il visibile e l'invisibile. Poi novità, ce ne sono veramente tantissime. Ecco, una novità straordinaria secondo me, perché noi siamo molto affezionati agli artisti che lavorano su carta, finalmente siamo riusciti a trovare l'appoggio dell'azienda Santara con la cartiera Atticross Company, che è una storica cartiera americana, che ha supportato 8 artisti mandando carta e poi facendo un premio acquisizione proprio, e la stessa Santara produrrà il catalogo del vincitore, quindi acquisirà l'opera e produrrà il catalogo del vincitore. Quindi finalmente siamo riusciti anche a trovare una quadra rispetto alla nostra grande passione che è la carta. Ci sono tante novità, però ci sono meno espositori quest'anno. Guarda, è stata proprio una scelta curatoriale. L'anno scorso avevamo 31 galleristi con 34 spazi. Quest'anno abbiamo deciso di ridurlo perché siamo veramente nel palazzo storico più importante, uno dei più importanti della città. Quindi noi ci confrontiamo con una facciata rinascimentale, uno scalone del 1558. Entriamo nel salone principale con una cassa armonica alta 37 metri, settecentesca, e ha il salone principale del ballo tutto affrescato dal Burrini. Quindi abbiamo un peso storico importantissimo. L'anno scorso è stato un po' il test, ma abbiamo visto che 34 spazi era troppo soffocante. A livello curatoriale dobbiamo rischiare, cioè Setup è stata sempre una fiera che ha rischiato perché è una fiera indipendente, quindi abbiamo rischiato ancora di più per fare in modo che i nostri 25 galleristi abbiano più l'opportunità di avere un contatto più lungo anche con il visitatore, perché se ci sono meno gallerie i visitatori hanno più aria, hanno più spazio, hanno più tempo per parlare e per visionare i progetti. L'anno scorso era troppo confusionario. Quindi il percorso che sta facendo Setup adesso, quello un po' dello snellire. Noi vogliamo rischiare tantissimo e vogliamo snellire, perché vogliamo essere veramente l'incubatore. Quindi non ci interessa avere tantissimi progetti mediocri. Speriamo di avere pochi progetti, ma tutti molto molto mirati e tutti molto molto selezionati, tant'è che quest'anno alle gallerie abbiamo imposto al massimo di portare 3 artisti. Litigate furibonde, ma noi siamo sicure che sia la strada giusta. Io volevo aggiungere una cosa che mi rende orgogliosa di fare questa edizione ed è l'anteprima nazionale solo visibile a Setup, con un'opera che è stata prodotta da Setup, quindi un grande orgoglio, si potrà vedere solo da noi, l'anteprima nazionale di I'm Sola, collaborazione col Teatro Magro di Mantova, di Marina Visentini e Elena Coppelli. Ecco, devo dire che è un onore per me, perché Marina Visentini è stata la fondatrice di Teatro Magro, che è uno dei primi teatri sperimentali d'Italia nel 96, adesso è la presidente di tutti i teatri di resilienza della Lombardia, e Elena Coppelli è una grande coreografa che ha al suo attivo anche collaborazioni con Pina Bausch. Quindi ecco, e poi io sono mantovana e quindi devo dire che insomma un po' anche per questo ci tengo tanto di invitare più persone possibile a vedere quest'opera. Per quanto ricordiamo, i posti sono limitati. I posti sono solo 50, purtroppo, perché dobbiamo attenerci a delle regole.